cosa buone, mi. Beh, Antonio si stava cambiando che doveva andare al grande incontro. Siamo rimasti solo noi. Ma non dovete andare anche tu lì? E no, io ancora non mi muovo di casa perché ancora devo far cosa. Ecco, appagappa. E allora esce all'ora degli occhi. E beh, grosso modo sì, io ancora ne ho per 20 minuti buoni, Mario. Appagappa, andrà bene. Prima il dovere, poi il piacere. Appa di positivo. Beh, chi c'è in ruota? Io ci sono. Va bene, no? Non mi ha riconosciuto, va? Credevo che era quel porco potuto facendo il libidinoso. A chi ha dato di venire la mania? Ciao Gianni, buonasera, mi sentito. Buonasera Mario. Hai visto che ha migliorato Giuseppe? Gappa, hai visto i consigli gli sono serviti? Oh Gianni è ben risentito. Gappa. Vabbè. Ne abbiamo attuato i consigli, quindi non c'è problema. Meno male, i consigli di quegli anziani sono tutti uguali. Io stavo dicendo della mia antenna perché ha detto che la vista è bella pomposa, che domina tutto il quartiere. E la si vede bene. Cavagava, ma io mai lo stavo ascoltando. Secondo me se tu li avessi messo i tiranti come li abbiamo messi noi, sono più elastici e non sono rigidi. Quelli hanno tirato perché sono rigidi e il coso, l'acciaio tira. Ti abbigliava un tubo di acqua, mica ce ne vuoi. Lo so perché io l'ho messo per dividere la forza, perché io ignorantemente ho sbagliato, perché poi gli altri tiranti li dovevo mettere sotto io, a metà palo, a circa 4 metri, capito? Perché io ho detto il punto dove fa forza è il punto superiore perché c'è l'antenna e dovendo, e invece non è così, vogliono messi anche più sotto perché quando l'antenna piega il centro sotto l'antenna rimane fermo dai tiranti, però il tubo sotto 8 metri tende a piegare, capito? Ma l'hanno appicciato i suoi sulle che ne vuole, mica è grosso. Falchetto, Falchetto, il viaggio con Falchetto io. Beh, quello che ha sbagliato è il tubo lo doveva mettere più lungo, lui mi ha detto tanto ce ne ho altro, lo aggiungo, invece poi non lo aggiungo, non lo so perché, non l'hai aggiunto la luna? Dici a me Gianni. Cappa Giuseppe. Non è aggiunto altro tubo perché io avevo i 4 metri più quello che ho preso questa mattina. Quindi in tutto quanto erano? Diciamo che tra una cosa e l'altra stiamo quasi toccando il cielo qui. Tu li hai messo troppo dentro, capito? Sicuramente il palo, tu ne hai messo un bel dentro e poco fuori, quindi è per quello. Ma comunque dai, è fatto bene perché almeno resiste. Poi l'altro palo glielo puoi sempre aggiungere, non ci vuole nulla, si toglie fuori, si aggiunge il palo e si rimpianta. Sì, ma io ho preferito buttare il più possibile dentro perché qui quando arriva il vento e tu lo devi vedere dal tetto stasera, io dietro, cioè è tutto campo aperto, qui quando soffia sono delle bordate. E c'è da me che sono di fronte al mare, da quando arrivo a questo maestrale a me la vicinanza, le altre antenne si pigliano tutti i ganti, da me rimane sempre bella dritta. Col coso che non si muove nemmeno, ma così muove, si muove l'antenna. Io mi auguro che faccia così anche la mia, io ho terrore che qualcuno mi citofoni e mi dica di andare giù a raccogliermi l'antenna. No, però io ho terrore che allora che io perlomeno ce l'avevo, ma anch'io quando l'ho piazzata salivo ogni giorno a controllare. Io vedo un po', il giorno che non vi sento più vuol dire che non ho più l'antenna sul letto. E magari ci ha piegato di chi di Giosso. Mamma mia, guarda, speriamo che mai succeda quello. Ah, ma figurati che non è gaggi. Se hai fatto un lavoro, io ti ho voluto un po' di mettere quegli occhiali, perché li hai messo questi rugginosi che vedi? E perché c'erano già quelli, abbiamo trovato dei punti d'ancoraggio che altro che occhiali già. Sì, ma il filo lì, il tirante, secondo dove l'hai messo? Muovi oggi, muovi domani, si consuma e si spezza. Invece le gianelli no. Ma credo che non muova lì dove l'abbiamo ancorato, perché può muovere su nell'antenna, ma nei punti di ancoraggio dove l'abbiamo messo, penso che non muova. Dimmi dove l'hai messo. Allora, sopra c'erano due tiranti fatti in ferro a L, e li abbiamo pulito tutti quanti gli ingressi e li abbiamo fatto passare due volte giù nell'antenna, e lì rimane fermo perché poi gli ho messo anche i morsetti. Se non li metti il morsetto, se c'era qualche buco li metti il morsetto e la caccia per il morsetto. Vabbè, se ci fossi stato io su ti avrei dato alcune idee, puoi metterci moschettoni, ci puoi mettere quello che vuoi. Sì, ma li abbiamo fatta passare doppia per tutte e quattro le tire, figurati 50 metri di cavo. Sei sprecatore cazzo! Sì, diciamo che l'ho consumato tutto, forse me ne è rimasto un metro e l'ho anche buttato. Va giù, ci vuoi. Lo so, però abbiamo fatto bene a prendere quello più caro, che mi sono reso conto che su è servito. Compreso. Già l'ho preso bene. Vabbè, dai, interessante che sia tutto. I morsetti te ne si ricordano, dove si è andati? Che per la metà sera tanto devi tirare. I tiranti li ho presi in via Pascoli da Mascia. Ah, capagà. Ho capito, vabbè, come? Dovrebbero andare bene, io non li ho visti cos'è preso, ma ne presi uguale a quelli che stavo prendendo là. Ma leggermente, guarda, forse un decimo di qualcosa più fini, e ti dico che vanno. Fini da stendere, dai. E cappa. Ma se ne hai messi dubbi è come se ne avessi messo grosso, non c'è problema. Pensate che se ne metta dubbi. Io ne ho messo 9 tiranti, e non me ne sono pensato. Quando mi davano in giro invece non me ne sono pensato. Quando ha fatto quel vento a settembre, che ne ha buttato mezza sassa, eccetera, la mia tema ha resistito. Sì, anch'io lì ho preferito, tanto oramai eravamo su, il cavo era inutile portarmelo a casa, tanto non sapevo che farmene e l'abbiamo fatto doppia mandata. È fatto bene. Quello non ti fa muovere, vabbè, il palotto è molto basso, non si muoverebbe manco se non ci fossero i tiranti, perché è molto basso. Noi dobbiamo uscire almeno 5 metri in altezza, 5 metri, 6 metri, là. Io non ho messo un palo da 8 metri, 3 metri, l'ho lasciati dentro per rinforzare e gli altri li ho fatti salire. Ma guarda, se io rimango così per me è già un successone, Gianni. Poi li ho fatti, ti sento bene a tutte le parti, ho detto che quella zona è buona. Io lo so perché ci abitato a Sacro Cuore, quindi lo so com'era. Vabbè, la mia era quindi era la zona, perché io stavo proprio nella piazza e pompava lì. Io abitavo proprio dove c'è l'angolo, dove c'è la numero 16, il primo palazzo che c'è lì, lì pompavi. Sì, lo so Gianni, però ripeto, da come ero prima a come sono adesso, vai che ce n'è. Io lo grido, facciamo per la giornata. Ma dimmi una cosa, ma è Pierre che fa? Anche se io ti ho sempre sentito bene, devo dire la verità. Sì, anche con la Torre 27 e anch'io ti copiavo non bene, quindi anche come adesso diciamo, dai grosso modo. Ma chi è che sta portando il fondo scaro? Bello, va bene, sto scendendo là. Capagà, ci sentiamo. Andiamo a fare una sera che sicuramente ha avuto anche amo. Ciao Mario. Ciao Giuseppe, ciao a tutti gli amici che sono in ascolto. Dobbiamo fare quello di esecutivo, ciao a tutti. grazie cordialmente. Una buonasera a tutti, buon continuo così. Ciao Gianni, ci si sente presto, ciao. Ciao Gian, buon proseguo, buon tutto e ce la risentiamo alle prossime. Ciao Mario. Presenta la Giuseppe. Avanti Mario. Certo, riprenditela. Ah sì, riprendo per niente. Vado anch'io in QRT Mario, faccio alcune cosette qui in zona e niente, se troviamo qualcuno ci risentiamo presto. E a cappa là, buon QRT anche a te, ce la risentiamo alle prossime là. Ciao. E ciao Mario, buon proseguo. Antonio, canale 21, Veneto, canale 21. sbagliolino qua da questa parte. Ma cosa sbagliolino? Antonietto, Antonietto, ritorno a casa Letti, ritinti. Stavo facendo un po', eh? Già. E scendi voi. Ma adesso, qua, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre. Ah, va buonissimo. Va capo. Mi ha scelto. Peraltro che abbiamo risolto, dai, non c'è... Bisogna fare un altro lavoro, dai. Apri il telefono, qui, ti faccio ascoltare. Dai il passaggio. Prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Come si sente? Fammi sentire. K, si sente benissimo, va. Vivo. qui, un attimino solo che vedo un pochino di rimettere in moto tutto l'apparato, cambio. Eccomi qua, tornado operativo, cambio. Yeah. Sì. 1, 2, 3, però vai. Ah, se si intende un bebè? Sì, eccomi qua. Sì. Chiudi pure Gianni, vai tranquillo. Diciamo è come essere qui a casa, dai, mi sento bene e sono contento che dopo tanti sacrifici anche voi mi sentiate bene. Cambio. Tutto forte e chiaro qua, Luca, ma gli schienamenti qua. Ah no, anche pure lui ho già il gioco me a Echina, su che andiamo? Non è facile camminare sulle tegole, non è facile. Comunque qua mi suggerisco una cosa, di cercare una massaggiatrice. Positivo, si trovano a quest'ora, cambio. Si trovano? Eia. Attenzione alle compagne di Marrazzo, Attenzione a Marrazzo, azzo e collazzo, cambio. Perché siccome ultimamente stavo più cercando troppo le compagne di Marrazzo. Ah, Pierpa, più che le compagne mi pare che sono seguendo i cadaveri di Marrazzo a me. Sì, come ogni volta che dice di Marrazzo con cadavere. Cazzo, andiamo per casa. Figurati cosa tutto c'è sotto lì, per carità. Ah, vero però, ogni volta che dice, guarda, quella lì è stata la compagna di Marrazzo, ma chi quella, la poverina morta l'ho trovata. No, appena dice che gli è mancato un respiro all'ultima Pierpa, chissà cosa è successo. Io non sono un razzista, non sono niente, comunque dico che la natura ha fatto due cose diverse e per me non esiste altro niente. Ma è positivo anche per me, Pierpa, è inutile che si cerchi di andare contro natura quando non si può. Una cosa è fatta per l'altra e niente, non ci piove, non posso trovare niente di diverso e quella cosa che stiamo dicendo noi, una tira l'altra e deve essere così. Non me ne frega niente, faccio quello che voglio. Vai tranquillo, tanto sto con le cuffie. Sì, ci credo mai. Farò Andronea a casa di staccarle qui e attaccarle, ma va bene così, dai. E almeno lasciamo andare il ragazzo con il microfono qui tranquillamente, senza nessun problema. Anche perché con le cuffie, io non so se sia difetto di queste che ho io oppure funziona così. Io ne sento solo una e non essere unico questo ragazzo qua. Buon ragazzo! Il baracchino. Quando attacco le cuffie sento solo nella cuffia di sinistra, è possibile? Guarda, qua è successa una cosa adesso che è per carità. Andi. Non vedendo perché altro gli hanno fatto una cosa tipo adesso te lo diciamo. Lì ti devi difendere alla grande, se non rientra di nuovo in campo Marrazzo, occhio. Adesso devi vedere che cosa è da qua. se la mangia tutta da voi, Antonio, no? Arrivati a un certo punto, Pierpa, e visto e considerato che l'avrei fatto ripagare con la stessa moneta. Al posto di rincorrere, lo lascialo fare, che lo sa lui quello che sta facendo, ma stai scherzando? Ma poi avete il collega, di venire che gli voglio parlare, perché glielo voglio fare una volta per tutte. Se no, altrimenti gli faccio perdere il posto di lavoro, perché se è il caso che io conosco la persona giusta. E lui non ci credeva, è stato qualche giorno fottendo pure, allora ha detto, così, aspetta che te lo faccio io. Poi è venuto il padre di questo qua a dire al padrone che si era sbagliato, che fai quella cortesia, che il figlio non se lo meritava di essere licenziato e ancora. E gli ha detto, suo figlio se lo va a pensare prima. Quando gli ho detto, forse lei non si è fatto lei, adesso gli ho detto un po' tardi. Hai capito? Prima case facili tanto di coglione, case gradate a destra e a sinistra, case poi case tutti quanti con la coda di paglia. Ma che vadano a fanculo, Pierpa. Cata, lo sai io quella gente lì come la schiaccerei? Infatti già, ha fatto fine brutta. Purtroppo è così. La gente non ci credono che lui ha mamma mia lo fare, già. L'ho visto brutto aver diventato lì. Figurati tu, casa, avrei voluto vedere un altro casa al posto d'Antonio. Casa, ma stiamo scherzando, cioè, ma no, io non le avrei accettati assolutamente, perché non sono scherzi che si possono fare, te lo dico molto, ma con cuore molto pacato, io in dire via ciapato, casa l'avevi già abitato in terra. Cosa gli puoi dire? Più che ringraziarlo non puoi fare, perché proprio si vede che è proprio di cuore buono. E niente, è proprio i soliti buzzurri che si trovano in ogni angolo di strada. Ma comunque ha fatto bene, guarda, ti dico, e ha fatto bene, perché io avrei fatto la stessa cosa, l'avevi alzato un cazzo a farate di me da tutto. Andiamo bene, andiamo bene, quello andiamo bene, che ce ne vediamo troppo. Andiamo andare per là, con chi sta già a casa non si imbriaghiamo, eh. Io sta, la prendiamo già, certo, noi, io c'ho visto la pubblicità, la bollicina che parla, e qualche giorno la trovo, vabbè. Sì, chi sta è la cosa là, chi sta che va a dire, c'è nessuno? E l'ho visto su Facebook l'altra volta, hanno fatto una specie di cosa, di per ridere, no? E c'era la bollicina, c'è nessuno, qua su Facebook, e la cosa che si è seguita, vedi, rompeva la palla, c'è la bollicina. No. Allora, ieri mi hanno messo anche a belli capelli. E capelli tu, belli capelli? Io ne ho conosciuto uno, insomma, non è sole. Questa benedetta mezza scrivania che ho preso. Perché ho dovuto fare questa piccola modifica e ho tutta la mia collezione delle bottiglie e bottigliette qui sparse in un mobile e nell'altro qui in cucina, però domattina lo faccio di sicuro, perché è anche brutto così vedere questo spazio tra il trigo e il pensile. Sì, sì, che ci stanno. E niente, se dovessi fare un'ora, avvisami domani e contrappano. Domani scendi tutti, da che la cominci? Se guarda, se ne ho la voglia che ne ho adesso già, forse domani sera verso le 7. Così domani, dopo domani vai tranquillo al lavoro, bello fresco. Oh, è che io dopo domani mi devo alzare alle 3, Gianni. Cacchio. E niente, c'è Cagliari Sesto e tutto il rientro con compagnia Bella che mi aspetta. E poi vabbè. Tu fai tutta la Sardegna così? E tutta la Sardegna e il continente quando chiama. Vabbè, te ne sette che mi saluta. E certo, come dice sempre qualcuno, l'hai voluta la bicicletta, no? Ti piazzi il volante, tutte quelle cose lì, e allora pedala. Vabbè, a te ti piace proprio guidare, così? Ma guarda, sono 28 anni che sto guidando e credimi, scusando della frase, cazzo, ne ho già le palle piene, già. E perché tu fai così? Mi arrivati alla cinquantina così, cominci già a stancarti. Arrivati all'andropausa cominci a stancarti. Esagerato. Ah, ma te l'immagini, cazzo, già siamo un po' scivecca. Ciao ragazzi, ehi, stai all'andropausa. Ui, guarda, è una cosa, guarda, che non auguro a nessuno, meglio che arrivi il più tardi possibile quella cosa lì, meglio che arrivi prima la marmita del camion e che a me. Forse ti ho coperto già. Molto, già lo credo. Peccato, ci mancherebbe altro, meglio si farà che già Eda. E chi se ne può sostituire, alla farò. Cazzo vero, mica, se la notte, ho usato dei buoni, ho pensato che tu poteva. Non è buono su quarantena, dei buoni. Oh, fa finire, cazzo, io stanotte me la sogno, cazzo, quella storia lì, guarda. Tu non sai come sono stato male stamattina io lì sul tetto. Ma tu dovevi aspettare, noi saremmo venuti, forse tu non hai pensato, magari non ci vengo, o questo e quell'altro. Oh, negativo al massimo, anzi, noi abbiamo pensato, questi vengono e gli facciamo trovare già il lavoro fatto, perché io credevo che per l'accordatura, poi di tutti gli strumenti che dovevano andare via, Santi ci voleva un sacco di tempo, mi hai capito? Noi siamo andati a mangiare che erano quasi le 3 oggi. Ma il tempo ci vuole quando magari la tela ti dà problemi, ma se tu hai avuto la grande fortuna che come è stata, è andata bene subito. Oh Gianni, non denigrarmi così, diciamo che ho avuto la... aspetta, come mi posso vantare che non riesco a trovare la parola giusta, la capacità, ecco, questa è la parola che mi piace. Arrivati a quest'ora, alle 11:20 ci stavamo ben bene, e ripeto, la capacità di trovare l'accordatura senza la strumentazione, cambio. Chiamala come vuoi, ma c'è peccato. Io oserei dire, cazzo, è colpo di culo quello, perché quel segno io l'ho visto proprio per caso, ma poi quel segno chissà chi ce l'ha messo lì. No, è molto senso orientativo, ma poi non è mai perfetto, capito? Sai che cosa ho fatto io già? Se te lo dico non mi credi. Dimmi. Visto la fascetta che c'è per quella di su, perché la molla giù aggancia nel bullone suo, ok? Sì. Poi c'è l'altra fascetta che è regolabile. Io che cosa ho fatto? Ho visto il segno e ho messo quel segno proprio al centro della fascetta. Mi capisci? Infatti ho detto, sì, va bene, ho detto la cordatura è bella che è fatta, però io non credevo, ma io l'ho detto così scherzando anche prima che arrivate voi, no? Infatti gli ho detto a quello che stava lavorando con me, lasciamola, cioè non stringiamola più di tanto perché sicuramente poi ci sarà da regolarla. Invece cade proprio colpo di culo bello e buono. Vabbè, quello mi sono fatta così da. Beh sì, perché oltretutto case su quel tetto andava a finire case che ci covavamo noi oggi, noi c'eravamo dalle... a che ora sono arrivato io a casa? Sarà stato tra una cosa e l'altra a mezzogiorno. Ti dico che non è semplice camminare lì, ti dico che le gambe, e non sono uno che si lamenta, ti sto dicendo le gambe ne hanno risentito perché eri tra due spiovenze, in più l'altezza, non lo so. Beh, quando ho atterrato era molto meglio lavorare, dai, conosciamo le tegole, ma non è tutti che salgono, io per dire no, io... sulle tegole mi sono salito su quella del Massimiliano perché la casa era bassa, se no... Sì, lo so, non è bello. Non è bello perché oltretutto qui, dalla parte dove eravate voi, c'è quel parapetto, anche se piccolino, un po' di sicurezza te lo dà. Però tu credimi Gianni, dovevi vedere dall'altra, cioè tegole nude e vedevi tutto il vuoto dietro, eppure dovevi rimanere lì su in equilibrio, e ti dico che non è una bella impressione. E infatti, e tu figurati poi quando abbiamo dovuto togliere la mantova per togliere quel cacchio dei tiranti che erano su, in che condizioni eravamo. Io ti ho detto, quando tu metti il tubo, metti i tiranti su, ma io pensavo che il tubo aggiungesse agli altri, capito? Eh no Gianni, io ho visto il pezzo su, infatti ho detto, secondo me quello è il pezzo dove comincia a flettere l'antenna. E in effetti, cioè per ragionamento sarebbe dovuto andare così, però per funzionamento non va così. Infatti già scatto ce ne siamo accorti quando l'abbiamo dovuta rismontare. Cazzo, guarda, me ne è sceso un colpo quando mi hai detto che non andava bene su. Davvero? Però per sette volte, magari con queste pece qua sono state anche inumidite, non si sa mai che si spacchia. E infatti sul tetto non devi mai salire quando è a tegole, con le tegole bagnate, devono essere belle asciutte. Anche se ti devo dire che stamattina, appena prima di pranzo, c'era anche il sole e ti dico che si stava bene sul tetto. Sì, ma vento, batteva. Guarda, ti devo dire, dopo pranzo mi sono dovuto mettere il giubbotto perché vento sì, ma tu devi vedere quando sei sul tetto, dalla parte di dietro, ma vedi proprio tutto il golfo, non c'è un palazzo che proprio qui ti arriva il vento proprio a tutto motore. C'è anche la zona libera comunque, se così, c'è la zona libera del mare. Sì, la zona è libera, però speriamo bene col palo, perché adesso magari sarà una cosa, un crucio, una coglionata che mi sto mettendo io in testa, però speriamo che regga. Regge il palo corto, anche se non li metti in tirante regge lo stesso, quando il palo è così corto non c'è una convinzione di mettere il tirante, il palo da quando è 5 metri in su devi mettere il palo, i tiranti. Infatti io pensavo che tu li mettessi dentro con l'altro tubo e unisci uno con l'altro, capito? Ma dei tubi noi ne abbiamo messo 3.000 Gianni, abbiamo usato anche quello che abbiamo preso da Grazia stamattina. E quindi tutti li utilizzati? Certo, tutti perché l'ingresso della mantova era quello, però c'è da contare che siamo scesi sotto tetto, proprio quindi diciamo che un palo è andato via. Un bel discorso avete voluto fare per inserire la mantova dentro? Non ho copiato Gianni. Ma detto, un bel discorso avete voluto fare per inserire parecchia, anche perché siamo dovuti intervenire un attimino con la moletta per togliere delle mappature, perché non entrava in nessuna maniera. Ma sei entrato in tubo, e fino in fondo è entrato, fino al diciamo a toccare dove attacchi radiali. Sì, tutto in fondo fino a che poi non andava più già. Speriamo, perché io ho quella malattia lì, e se faccio una cosa poi stai lì a pensarci, fare, figurati caso mi stavo mettendo i problemi di quando avevo messo l'antenna della televisione, che in confronto è una cagatina. Sei un po' ansioso. Eh sì, io guarda, ogni volta che alzavo la testa per guardarla, guardavo la punta e dicevo, cazzo quanto è alta. Anzi, io pensavo che tu ti fossi dimenticato della mola, perché la mola non si vede faccio. Ho capito anche la butta di antenna. No, guarda, di coso abbiamo seguito alla lettera quello che diceva il foglio, anche se poi ci stavamo mezzo incasinando, perché prima avevamo mezzo invertito un palo, no? Perché la Mantova doveva entrare nel palo che avevamo comprato da Grazi, è giusto? Certo, è giusto, è giusto. Ecco, e lì infatti io dicevo, ma se il palo l'abbiamo comprato, abbiamo provato, ti ricordi che poi noi quasi quasi non riuscivamo a toglierlo lì sul banco? Ecco, quindi quello era l'inizio. E poi da lì, piano piano, col foglio in mano, siamo risaliti, anche perché piazzando laggiù, Gianni, come volevamo fare dall'inizio, poi ho detto ci vuole della funi lunga che non avevo, cioè ce l'avevo, però oramai l'avevamo già tagliata per fare i cosi, per fare i tiranti. Comunque dai, l'importante è che sia andata, che siamo qui a casa sani e salvi, perché io delle volte dicevo, cazzo, se cado da qui, cazzo, questa Mantova non me la godo. No, già te la godi, dai, tranquillo che va bene. Oh, anche se sto uscendo passo, Gianni, dai, non è un problema, va bene lo stesso. Ma stai uscendo un passo, che te la sto uscendo un passo? Il passo era tra parentesi. Ma benissimo, se la radio di Santiago. E quanto già? Ma adesso se la radio di Santiago va bene. Ma dai che va bene, anzi va benissimo. Ed è già tanto, ti ripeto, da come ero abituato alla storme, che dovevo mettere le cuffie, mi dovevo assordare per sentire cosa stavate dicendo, e delle volte anche Pierpaolo dovevi stare lì a proprio a cercare le sillabe, così guarda è anche troppo forte per me. Benissimo, va benissimo, è giusta così. Anda bene, niente, mi auguro di godermela per, non voglio dire, almeno 10 anni senza avere rompimenti di palle. 10 quasi, 30 anni. Ma speriamo, anche perché, ti ripeto, qui si riesce a farmi pian pianino la postazione che ho in mente io di farmi, non devo stare più a togliere, mettere, attaccare i fili e tutte quelle cose lì, io devo solo attaccare la spina e via. Anche se qualcuno non mi ha dato la soddisfazione stasera. Questo è un attimo di piatto, Dimmi Pierpaolo. Un attimo di piatto. Kappa. Nulla. Vabbè. Attenzione. Tornados. Nulla. Attenzione. Giuseppe Tornado. Kappa. Avanti. Cambio. E che fine hai fatto? E niente. Ho fatto un bianchetto anch'io. Bianchetto? Kappa. Era giusto un niente, un morsettino zitto, il posto ingresso poco fa, però è maleducazione parlare con la bocca piena, quindi ho preferito tacere, cambio. Ah, che guarda, no, vabbè, fatto bene. Stai mandicando? intanto una mezza fetta di panettone, cambio. Esatto, bene. Sto per fare un fondino, anche perché giusto per non perdere il vizio, dai. Sì, tu ci hai sorpreso quello che bevi, ti ho capito. Vigliacchi. Ma gli vengono un solo. Ehi, è sempre il discorso mio, adesso sono solo qui, cosa faccio? E ti fai una fettina di quello, ti fai due toste, ti fai due ciuffetti di pasta, poi ti viene di nuovo un mezzo appetito e poi ricadi sempre sulla fetta del panettone. Ehi, non si può parlare, signor Giuseppe. No, sai qual è il discorso? Che se io continuo così sul letto non ci salgo più, perché ci passo giusto giusto oramai nella bottola, o come cavolo la vogliamo chiamare. Ma perché c'è una bottola, scende la scala, così funziona. Cappa. Ah. Avete qualche motorino lì nei dintorni? No, negativo. Però mi hanno bombardato qua. Ah, ho capito, io ho sentito una mezza impennata di Valentino Rossi passare, cambio. E qui ho sentito nell'altoparlante del baracchino una mezza impennata di Valentino Rossi. Ah, forse sei tu che ce l'hai la moto vicino. Non lo so, può essere Gianni. E tu l'hai sentito lì? Sì, l'ho sentito sul mio. Ma poi se c'è posto vicino alla sala, io non me ne ero reso conto. Ma non sarà per caso Pierpaolo che sta passando qui impennando, no? Ma no, Pierpaolo se manca a dire, ho fatto la ragazza, adesso è stato molto momento cattivo. Ah, capito. Ma mille volte, ce l'ha fatto, ma ce l'ha. Non ti ho copiato adesso, Gianni. Ho detto che ce l'ha la moto, è fermo ma già ce l'ha. Beh certo, se non ce l'ha lui la moto, chi ce l'ha? No, ma non quella da lavoro, c'è il pick-up. Ah, vede, il pick-up è bella. Pure di quelle che camminano. Addirittura, e quanto è? 103. Quanto? 130. Sì, va bene. Oh Gianni, ma quella va anche a due ruote? A due ruote, sì, è a due ruote. Ho capito, però volendo va anche a una. Sì, se impenni, sì. Beh, se impenna, sì. Pierpaolo è capace di impennare, sì. Una volta sì, adesso mi sparo a me, perché sono finiti quei tempi. Ma ascolto, io ho la curiosità, siccome c'è un problema qua. E dimmi, Pierpa, non c'è problema. Non lo so, sono arrivato qua al Belvedere. Non ti ho copiato, non state uscendo bene. Vi siete spostati? Aspetta un attimino, Vanti. Come siete adesso? Sì, adesso ti sento, Pierpaolo. Come devo segnare da qua, dai, vediamo quanto di segnare da qua. Beh, stai uscendo quasi a fondo scala, Pierpa. Certo, adesso mi senti? Adesso sì, adesso ti ho copiato bene, ma poco fa, no, era come voce molto confusa. Metti qua, sì, dai, meglio che qua. Va bene Pierpa, state uscendo alla grande anche voi, a fondo scala e radio 5 alla grande. Non lo so, ma lo so come è il Belvedere? No. Sai, su in alto San Francesco. Ah, su a San Francesco, oh sì, adesso sì, sto cominciando a fare un pochino di memoria. Non ho fatto quello spiazzo lì. C'è anche uno che ha una bella postazione lì su, se non mi ricordo male. Allora, c'è un tuo problema qua. Lo so, che voi siete maschietti e lì ci sono anche maschietti e femminucce in macchina. Che come siamo arrivati? C'è un po' di gente a battere in mano, come siamo arrivati noi e ci siamo ritirati. capito, e quindi cosa vuol dire secondo te, Pierpa? Non lo so, è solo che non è, cosa poteva essere, non lo so, magari che mi fudi tu un bene. No, come siamo arrivati noi, le femmine, tutte a passo le mani. Allora lì la cosa è triste, secondo me conviene porre in retromarcia e via. Io mi sono roba di molle delle ammortizzatori circolando. Allora digli a quelle lì che vuole appena ingrassata la macchina. Movimenti strani, che non lo so, come si fa a fare i movimenti strani? Tipo su che andiamo. Naturalmente, più lo mandi giù e più ti tira su. Come la vedi la gastronomia? Ascolta, andare a bussare il finestrino e dirgli, scusi, ma non si rende conto che gli ammortizzatori scarichi lei? No, sono vicino io. Che fai, diga? No, ci fa brutte figure, ragazzino. Vedo un pochino se questa Mantova 1 le può andare bene, cambio. E 1, 2, 3, 4, 5, 1. C'è anche la turbo se non mi ricordo male. Ma non mi turbo non me ne intendo, Gianni, intervieni, cambio. Tra l'altro, non so come mi ma quelli sono scolerati però, Sì, già? Addirittura, e che cos'è? Non lo so, sono tragica. Come tragica? Come sono quasi per voler essere pace, ande muove? No, via, va bene. Già ci vogliono anche queste cose. Ehi, mi ricordo anche in giovinezza che si facevano quelle cose lì, beati loro che riescono a trovare ancora il tempo per farle. Noi oramai con prole e con le cose cosa fai? Cioè dove ti muovi? E tanto non la tarde, adesso ti faccio una domanda. Nessuno, per vabbè, tranquillo. Ma che vicino di casa? Aspetta che abbasso il volume. Allora non ci va le negativo. Allora non lo dico là. E vai tranquillo che qui non sente nessuno. Ma no, non la dico più là. Vigliacco. Non vorrei che mi sentano le stanze. Cosa state facendo in macchina? No, che ti vuole fare una domanda. Vai tranquillo, non c'è nessun problema. Se sai perché, se tu lo sai, perché ancora neanche gli esperti sono riusciti a farmi avere a profondità la vaccina, tu lo sai. È negativo, Pierpaolo. E perché non lo sai? Perché non lo so. Non lo sai? Te lo dico io, perché? Ahi. Perché finalmente è stata visitata la testa di cazzo. Cazzo, è terribile, cazzo. Diga. Comunque, io sono contrariato con una persona qui oggi, sicuramente non so se entri o più tardi o domani, sicuramente non la saluto. La saluti? No, assolutamente. Ho saputo che ho piazzato la Mantova? Non so di cosa stai parlando. Oh, sto scherzando, Pierpa, stavo dicendo di Capri 2. No, io la penso a Pato. Hanno degli impegni, mi sembra, che vanno a suonare col figlio. Ah, bello. Non tutti i sabati, ma credo che qualche sabato sì. Oh, cavolo, una volta che ad esempio ieri c'era e non ci capivo niente, mi sa che mi ha fatto da Ponte Gianni per salutarlo, ma proprio una cosa indescrivibile quello che ricevevo io qui. No, adesso già lo sentirai, là. Adesso già lo sentirai, la voglia. Già lo sentirai molto forte questo periodo, perché c'è un problema. C'è un problema anche lui in questo periodo, eh? Il problema di... Ma non lo so, me ne stava parlando Gianni di cosa, ma di valvole mi aveva detto che aveva risolto. No, non ha risolto, non ancora deve risolvere. E non conviene direttamente comprare un nuovo per fare. E chi ce l'ha sentito, eh? Beh, è tanto quello che lasci sul co, perché poi anche se lo recuperi, lo restauri, tutto quello che vuoi, attenzione, non è una critica la mia, perché ci mancherebbe altro, anzi è da ammirare la gente che fa certe cose, però secondo me sempre qualche problemino ti danno queste cose qua. No, problemi no, sono un po' pericolosi. Sei pericolosi, quelli valvolari, scatta, se non stai attento ne esci biondo. Infatti, positivo, un bel rivolgo in casa e dici, ma a casa mio marito era, che ne so, stempiato e cose, e da poi me ne è arrivato uno a casa tutto canto con i druccioli in capo, biondo, pelirongo e cose, dici, ma guarda che sono sempre io, e lì non ci crede. Ma no, c'è uno, no, siamo morlato, e c'è lui, va il microfono attacco, no? A un certo punto si è addormentato con il PPT inserito, quindi che era importante, e ce l'aveva lì alla chiesa, ce l'aveva sul comodino. A un certo punto, lavora, si aveva un portante inserito, si è scoppiato in faccia. Si è scoppiato in faccia, fuoriti e macchinito. Ha pigliato le braccia, ha lasciato delle dico, con le mutande calcate. Cazzo, ci posso credere, cazzo, davvero mai hai pigliato i prammi di un genere? Cazzo, l'ha pigliato nel programma, cazzo, cazzo, hai fatto un cazzo delle dita, guarda, ci sono tornate, e qua la faccia, cioè, perché ti ha fatto un nero in faccia, facciato io. Ma per fa, ma come arrivare a ciappato, cazzo, correndi, cazzo, mamma, non sono io. Ma come vuoi che era un medico, non era in atteggiamento strano, come vuol dire? Se non è un medico, perché ti ho detto un po' mesi? Cazzo, io come la faccio più? Autorizzatemi questi valvolari, cazzo, per fa. No, io voglio usarti con criterio, capito? Voglio usarti molto, molto, molto bene, non sono cose trascabili così, quando sei vicino a cose così perché c'è il buco dell'aria, non c'è da arrivare acqua, non prende umidità, siamo un po' delicati e da nuovo scoppiamo subito, non sono calde, sono tremende. Beh, ci credo, infatti mi pare che dietro ci sia scritto da utilizzare se possibile con maschera e boccaglio. E cosa devi fare in chiwi per pacca? Devi là in chiwi, fammi tendi case e con la mano pronta a casa a tapparti la faccia. Semplicemente che la voce è un uso sconsiderato, capito? Questi sono casi così che sono successi. Io sapevo di molti anni fa di uno che invece ci aveva tolto il coperchio, ma subito non funzionava più, non ha tolto il coperchio e allora ci ha toccato la valvola e ci ha rimesso l'unità. Cazzo, ha toccato la valvola, roba da matti. Sì, guarda che ai tempi che furono anche, non faccio nulla, anche un tempo mi si era scoppiato in faccia che stava un televisore. E c'aveva, infatti c'aveva, vicino all'acqua c'aveva una cicatrice enorme. Beh,

Quale stai dicendo tu? Quelle vicino al tubo catodico? La volta va... praticamente che nel circuito era in verticale. Via, quella lì, quella più grande che c'era, quella dell'illuminazione era sempre quella più grave, no? Ma sei così. Ehi, cappa, Pierpa, io mi ricordo da ragazzo, cosa avrà avuto, forse una decina d'anni, avevamo la televisione a valvole in bianco e nero e sotto aveva un trasformatore che serviva per accenderla, no? E dopo di sentire la dica, se è precuto una bomba a casa, siamo cagati in otto. Una volta io si faceva scoppiare lo schermo, si faceva scoppiare con la batteria della nuova luce. Quello no, per fa, questo mi dice il nuovo. E si faceva così, metteva la batteria della nuova luce, ma la collegava lì ai filamenti in una certa maniera e iniziava a diventare tutto il quadro viola. Poi a un certo punto a tale diventava bianco e dopo un po' faceva esplodeva, che mi tremendo. Una luce l'avevo fatta ma con fortuna placavava a campare. Se mi messe in rega io lì, ma già non guardo, mi sono venuta brutta. E pensavo che ci siamo partiti tutti in scaglia. Quello lì dicono che è abbastanza pericoloso anche il pezzo dello schermo che appartiene al fumo, o sbaglio? Grosso pure, le schegge fanno un bel male. Cazzo, è grosso e anche avvelenato e quelle cose lì, quel vetro lì. Avvelenato? Perché avvelenato? Ah, dico avvelenato nel senso che ha contatto con gas lì dentro. Non c'è niente di velenoso. Non so cosa è. Povera che faccetta quella lì. Ah, perché io sentivo sempre di questo cacchio di coso, no, del tubo catodico, che non c'è cosa più velenosa di quella lì. No, non è veleno. È una specie di polvere di marmo con rifrangente, una sorta rifrangente, che quella con tanto col gas che va dentro, quando si accendono questi filamenti che all'interno si attaccano alla curvatura, non lasciano riflettere l'immagine che arrivano tramite il tubo cattolico, le rinfrange lì e le riflette sullo schermo. Ho capito, Pierpa. Niente, a me avevano sempre detto questi gas che c'erano dentro il tubo che andavano ripristinati, cioè tante di quelle volte proprio quando non sei ferrato nella cosa, magari coglionate ti dicono e coglionate ti porti per anni dietro. Ma cosa, allora, quando quella poverina è talmente consumata, l'immagine sullo schermo, ma non ha anche sapere queste cose qui, perché anche a me come cosa piace sapere di queste cose di elettrotecnica, vedere un pochino come funzionano certe cose, però ci vuole anche passione e tempo per fare, però mi sto accorgendo che tempo cazzo io non ne ho. Invece io la facevo la scuola, ho fatto il terzo anno, mi mancavano altri 2 anni e non li ho fatti, proprio per motivi di lavoro, perché poi sono entrato al lavoro, lavoro proprio perché prima lavoravo sempre così e poi sono entrato al lavoro, lavoro e quindi ho lasciato perdere tutto, mi mancavano 2 anni. Hai visto, mannaggia, casa, magari eri stato un tecnico qualificato anche. Infatti è che non c'erano soldini per le cose così, che non c'erano soldini per finanziare, perché questi studi sappi che sono tutti personali, no, col cavolo, già, prima erano tutti a pagamento tuo, diretto, dovevi pagare per questi studi, perché poi dovevi comprare tutti i titoli di prova, ed erano tutte a spese tue. Allora non c'erano neanche i soldini, perché altrimenti si poteva fare 3 anni, in 3 anni si poteva ottenere, solo che da che non c'erano i soldi allora temporeggiavano, ho fatto 3 anni, ho speso un bel po' di soldini e poi l'ho lasciato perdere. Beh, in effetti è stato anche un peccato e mannaggia, perché se fatto 30 avendo la possibilità di potersi finanziare e arrivare a fare 31, però un elettrotecnico è sempre un elettrotecnico. Secondo te è un ragazzo di 16 anni, quasi 17 anni, che gli danno un posto di lavoro e ha pagato bene, che cosa faceva? Ma io avrei mollato subito come hai fatto tu e Pierpa, su quello non si piove. A quei tempi lì, quando mi sono visto uno stipendio di 460 lire, lascia perdere tutto. E ci credo, così ho fatto anch'io e Pierpa. Io ho iniziato da ragazzo che appena finita la terza media mi sono fatto le ossa in officina. E grazie a Dio, se ho qualcosa da fare e la mosca dal naso riesco a togliermela tranquillamente. Adesso dicendolo così non mi dici, se dici quanto prendevi? 460 lire, io cosa so adesso, ma a quei tempi era un impegno bello. No, perché adesso sono abituati, o prima erano abituati al 1,5 milioni, adesso se non sono i 2.000 euro non gli bastano, hai capito? Bisogna provare anche quello che abbiamo provato noi, perché anch'io ci sono arrivato a prendere 80.000 lire a settimana ed era una miseria. Beh, immaginati che all'epoca io ho preso la moto, la Vespa, e ci voleva più di un intero stipendio per comprare la moto, e quindi era un bel avventice, e diceva prendo il rap, io invece avevo messo uno stipendio da parte, più di uno stipendio, l'avevo preso in contanti. Guarda, io te ne dico una, la prima moto che ho avuto è stato un Ciao di seconda mano e mi ricordo che l'avevo pagato 60.000 lire. No, io non mi ripeto quanti, 60.000 lire, secondo uno, poi io ce l'avevo messo, ma se ce l'avevo messo allora era una cosa che mi sono detto troppo bene. Figurati, e già allora qualcosa si poteva comprare, non come adesso. Vai e prendi qualcosa tu, quanto fai una proporzione di cambio di moneta e vedi un pochino con prima era 500.000 lire, adesso tu vai con 250 euro a vedere che cosa fai per là. Allora vieni come te ti avrà, ormai ho comprato la moto, 5.000 euro, 6.000 euro, erano un bel, allora, non erano pochi, e tu pensi che con quello stipendio attenzione, si poteva campare anche una famiglia con quello stipendio lì, perché c'era anche il valore della moneta. Adesso che valore hanno questi soldi qui, Pierpa? Che non ve la fai manco casa a comprarti un pacchetto di... Io, grazie a Dio, non fumo. Però io dico, se dovessi fumare, che cosa devo fare? Io quando ho iniziato a lavorare in questo mi ricordo ancora, perché allora fumavo solitariamente, poi che ero entrato a lavorare fumavo, compravo proprio il pacchetto, lo pagavo il pacchetto dell'OMS, allora a me, naturalmente dovete fusare, non lo so, non è identificato proprio, ho preso un pacchetto di OMS, il primo pacchetto di OMS, perché prima fumavo mischiato così, allora, a ciabare, insomma, quei pochi soldi che avevo. Compravo le mese 150, 150 lire al pacchetto. 150 lire al pacchetto è perché avevano quel valore lì. Io adesso non so quanto costi un pacchetto di MS, ma io penso che non costi meno di 4 euro, però se dovesse costare così, a proporzione, ma se fossimo stati in lire, tu ne avresti mai comprato un pacchetto di sigarette 8.000 lire? Guarda, ci sto pensando adesso di smettere, figurati. Qui ti sto dicendo, Pierpa, che se continuiamo così, non tanto poveri noi, perché noi, bene o male, a me, se va bene, fra 8 anni, una vita, mollo tutto e chi si è visto, si è visto. Ma anche per i nostri ragazzi, allora ce la facciamo a tirare avanti così? Cioè, io vorrei capire dove vogliamo arrivare, perché... Io mi rendo conto che quando c'erano quei due spiccioli che si prendevano, sto parlando delle vecchie lire, non arrivavi mai a fine mese proprio strisciando con lo stomaco per terra per cercare di raccogliere anche le briciole da terra, e capisci? Anzi, prima quando c'erano quei soldi lì, era una vita anche un pochino, anzi, non un pochino, un tantino più dignitosa di quella che stiamo vivendo adesso. E attenzione, io parlo per me e come me ce ne sono tanti, tanti, credimi, tanti, perché il giro e di gente ne sento parlare e veramente la cosa non è normale secondo me, perché prima o poi qualcosa dovrà succedere per qua, dai. E cosa vuoi succedere? È certo che non hanno in compo a tirare avanti adesso, quello che specie di così, non so cosa possa succedere. Vabbè, comunque, le difficoltà della vita ci sono, c'erano, perché ricordando dagli anni che siamo venuti, eravamo povero, ma comunque è stata superata quei tempi, diciamo, la fame adesso, insomma, è un po' superata. Però io me lo ricordo, quando ero ragazzino, ci accontentavamo anche di poco, adesso hanno tutto, però non si accontenta nemmeno. E certo che non si accontentano, te lo dico io e lo saprai anche meglio di me, è perché c'è troppo di tutto in giro, hai capito? C'è troppo benessere. Prima invece quando ci si passava le scarpe, quando io prendevo le scarpe di mio fratello più grande, era festa ogni giorno quando te le passavano, mi hai capito? Prova a farlo adesso a vedere cosa ti dicono. Lo so già. Oh, io mi sono sposato, ho fatto 25 anni a questo agosto, infatti Antonio ho fatto lo stesso 25 anni, a novembre. Guarda, ho avuto non poche difficoltà e riuscirne è stato molto, molto difficile. Però sto sommato alle difficoltà, ecco, vabbè, si è tirato avanti e si tira avanti. Allora, se sono tutti e due grandi, ho fatto in fretta, un maschio e una femmina e via, uno preso l'altro, è più malettato. Beh sì, quello sì, e ti do ragione, è anche bello poi quando sei giovane vederti lì grandi, cioè ti come posso dirti, cioè te li trovi a fianco, hai capito? Non tanto come figli, ma forse anche come amici, perché molte volte te li guardi e dici, cazzo, chi è più alto di me, oppure chi è più alta di me, ed è anche bello così un rapporto tra padre e figli, ed è giusto anche che sia così. Su quello ti do ragione, Pierpaolo, perché c'è gente che dice che bisogna avere fortuna, no? Ma magari anche su quello gli posso dare ragione, un pizzico di fortuna ci vuole in tutte le cose, però vuol dire molto anche l'educazione che si dà ai figli, mi capisci? L'educazione può tutto, però io vedo specialmente ultimamente anche dei genitori che non abbandonano troppo i loro figli e li lasciano un po' troppo il loro destino, e poi quando arrivano a un destino brutto dicono si inclinano a chiedersi perché. Io non ho fatto mai abbandonarli, però sono contento di quello che ho adesso. Beh, giustamente, come dice il proverbio, che chi semina bene raccoglie bene. Anche quello è vero. Però, guarda, ti dico che non è stato facile, anche perché quando poi ci si mette tutto di mezzo, io avevo due figli piccoli quando sono cantonato, e non è una bella cosa. Lo so Pierpaolo, lo so perché... non direttamente ma indirettamente, ma è come che mi abbia toccato personalmente, se posso dire, ci sono passato anch'io, dai. Purtroppo accade anche quello, perché qua se no la vita sarebbe troppo bella, si va tutto liscio, ruia, lascia verde, razza verde. Nella vita ci sono le difficoltà, e poi quando mi sento questa gente che dice poverino, è finito così, drogato, perché ha avuto le difficoltà della vita, poi ha trovato le persone sbagliate, ma vai a cagare, vai. Quando io penso che avevo due figli piccoli e sono caduto male, in ospedale, e sono stato un anno in balia delle onde, e poi tutte le conseguenze, ho perso lavoro, non ho più contatti di lavoro, e niente, dovevo disimpegno. Sì, vedi, ed è proprio vero quello che dici, perché quando uno ha proprio bisogno di potersi risollevare, sembra come quasi che gli sia cascato il mondo addosso, però come vedi, in una maniera o nell'altra riusciamo sempre a risollevarci, perché io dico sempre questo, bisogna essere sempre umili nella vita. Poi le cose già si sistemano, cioè grossi obiettivi, perlomeno io parlo per me, non me ne sono mai preposto, perché tutte le volte che ho fatto qualche progetto, tranquillo che ti fa sempre male. Però alla fine, come ho detto, ho alzato la testa, non sono andato a fare un lavoro che purtroppo non volevo, casa veramente, però per poter recuperare qualche cosa, cosa voglio fare? Sempre fuori ancora, e quindi la famiglia la vede poco, e questo era il primo pensiero sempre che andava nei viaggi, viaggiando in continuo destra e sinistra, e allora poi che ci siamo messi a posto abbiamo cambiato anche quella, ci siamo potuti permettere di cambiare vita. Sarebbe anche giusto che sia così, cioè ha voglia di prendere i colpi tutta la vita, un pochino di sole anche per noi, poi che esca. Non te le mando in show, davvero. ma è così, anche perché gente che fa quelle cose così come avete fatto voi è solo gente da ammirare e non c'è altro da aggiungere per tutto. Allora, guarda, non portando al discorso, ma siccome loro la punta grigia con l'antemiro sopra e da un po' che arrivano le macchine, vanno a fermarsi, guardano le macchine e spariscono, cosa sarà? Non lo so, forse si è sparsa la voce che c'è di voi lì. Paura! Ma no, appena, dice, e come mai questa antenna di su? Guarda, io non mi capo, ma non parlavo, chissà che cosa sospettano, allora guardano, boom, e via. Beh, quello sicuramente l'avrei fatto anch'io, mi piacerà, perché dice fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Che cosa saranno questi sbirri? Sono appostati stasera, non ci vogliono fare trombare. Lo sbirro in azione, su a San Francisco. Siete, ecco, guardi, questo cos'è, un gatto che caga, va? E Antonio la pizza l'ha mangiata, sì. Sì, ce l'ha fatta per fare. Caspita, hai visto? Chissà se ce l'ho detto, mettiti la vergogna. E ha fatto bene, casa alla grande. Casa alla grande, abbiamo fatto uno scherzo. Sì, lo scherzo canta che se non mangia niente, cazzo, lo salsiccione, vento pieno. Lo salsiccione, adesso non è pace, non è solo le orive, quello è. Poi andiamo ben, chivi. Sono fatta una femmina, vabbè, lo scherzo, andava a fare un maschio, uno scherzo così. Ma non si faceva gli sposi, si metteva il pizzolo, con i pomodori, beh. Sì, ma non hanno più nessun coso, né... Non hanno manco più idee inventive, cazzo, non fanno più nulla che sa niente. Oh, capo. Comunque, sono cose che non vanno bene. No, assolutamente no, io non l'avrei accettato assolutamente. Ma voi non l'avete puro, me? Puro? Pura. Cazzo, allora cazzo, vi aveva stato a fare dei due da culo, io, a Eto. Ma sì, dai, secondo se magari è gente che si conosce, ogni tanto magari ci può stare, però non spesso, perché poi diventa asfissiante la cosa, e la cosa asfissiante mi dà parecchio fastidio. Vabbè, così allora ha tirato la vecchia. E allora vi ha tirato visto e l'altro di sacchizzone a Ricci. Io non ho ricevuto un altro dopo di staccare io, ma... Ah, bene, su quello, guarda, io sono voluto essere meno invasivo, diciamo, dai. Vabbè. Insomma, era anche bello grosso, eh. Se si voleva contentare, faceva tipo marrazzo. Oggi mi piace ogni altro, io... Ah sì, lì, guarda, c'è una bella visuale, occhio a non vedere la mia antenna da lì. Di notte non si vede. Adesso gli voglio mettere un cecalino sopra, ossia che ne rampia cacche di conte, lo passendi. Cecalino? E mettere uno di quei cecalini con la luce intermittente, ossia che magari ne butto qualche elicottero passando. No, non c'è bisogno, non può scendere a quella quota. Oh, e se ne rampuca che borraccia? La borraccia è meglio la panina, tanto non c'è, non serve a niente. Cazzo, ma veramente, cazzo, prima non ce n'erano qui in zona. Da quando ho detto anche a Gianni, che stamattina mi pare che ne stavamo parlando, da quando stavo frequentando dei ragazzotti qui, e sarà già un anno e mezzo buono, ai giardinetti del Sacro Cuore, si prendono la pizza, tutte quelle porcherie lì, poi non è che buttano tutto nel cartonetto, rampano tutto tanto in mezzo ai giardini. E lì, giustamente, loro trovano il loro habitat, da mangiare, tranquille, non devono fare nessuno sforzo. Si è sparsa la voce ed è tutto quanto pieno di curracci. Subito, subito, subito, le si muove dentro il malachino di male. sento proprio adesso in diretta, per favore. Questo fa massa, capito? Ma poi che la morte è tutto il corso circuitata, no? Cominciando a capire un po' come funziona la cosa, eh? Sono così, le radio sono così, se entra se muore dentro è fritto subito la finale, entra se muore dentro la finale, fa il ritorno dentro e lo brucia subito. Eh beh certo, se rimane in un secondo. La moto si brucia anche il TRL, la finale è TRL, secondo come viene tra la classifica dentro. Ascolta, a proposito di PL, una cosa ti devo chiedere per fare. Il TRL è un'altra cosa però, eh. Sì, ma adesso che ho sentito quella sigla lì, prima che mi dimentichi, e l'altro giorno ho staccato il baracchino dal camion e quando ho staccato il PL da dietro stava praticamente bruciando. Che cosa può essere successo? Stazionaria al massimo, stazionaria. Se figurati. Sono abbastanza robuste quelle finali perché sono un MOSFET e le regolo, però si brucia, si sta facendo tutta la finale a MOSFET. Appunto perché non so la finale regge di più, però non c'è da fidarsi molto molto a farlo scaldare. E dimmi una cosa, queste stazionarie come le elimino io, Pierpaolo? L'antenna alla volta c'è una vite di regolazione, si regola lì, quando non basta 2 mm per volta bisogna accorciare l'antenna. Ho capito, quindi niente, io ti dico la verità, un po' di tempo fa me l'hanno provata con un erosmetro e niente, addirittura loro questo tipo che me l'ha provata mi ha detto che stavo uscendo con 2 watt, poi non so se sia vero. Ma 2 watt nel nazionale quanto erano? E quello non me le ha misurate perché sicuramente non aveva il rosmetro adatto per misurarmele. E quel baracchino per quanto volano, 4 watt così è. E questo che ho io? Mi sa che sia o 4 o 5 o 5 watt per. Ah, senz'altro 4 watt, di norma di legge, sono 4 watt. 4 watt malattie così non le danno mai, ma 3 e mezzo sì, effettivi ne danno 3 e mezzo, 4 di cosa non le danno mai. E ti dico una cosa, se dà meno di quei 3 watt ci sono stazionari, se ci sono stazionari si brucia, si mangia i watt e il baracchino non esce bene. Se ci sono un sacco di conseguenze dietro, capito? Infatti io sto pensando di lasciarlo qua lunedì perché non mi fido a metterlo più in camion fin quando non riesco a organizzare qualcosa, cioè non so manco io più cosa fare per fa, perché da quando l'ho piazzato non mi ha mai soddisfatto. Cosa si scalda il piede, c'è qualcosa che non va, non deve scaldare. Sì, il PL la sera, ti ricordi? E adesso non mi ricordo se era di giovedì che ci siamo sentiti e poi vi ho salutato perché ero arrivato in stabilimento. E lì poi, come ho tolto l'apparecchio dal camion per portarlo qui a casa, quando sono andato a svettare il PL era caldissimo. Potrebbe essere mancanza di abbastanza per fa. Potrebbe essere, sì. E per come sono fatti, insomma, e tante motivazioni ci possono essere. Tra l'altro, quarantena mi pare che sia corto circuitata, ho visto lì dal colore, mi hai fatto vedere. E se è corto circuitata, deve prendere la massa sotto bene. Quella burchia va a essere un senso che deve fare la massa bene. Infatti, credo che non la stia facendo bene comunque, questa è la mia idea. Non so, quello lì, non so se quando, se ci potremo vedere, l'orario che c'è il camion, se ne potremo vedere, no? Per quello non ho problema, per fa, perché tanto io le chiavi ce le ho sempre qui a casa, io ce le ho 365 giorni l'anno, le chiavi, per quello non è un problema. Il discorso è che mi rompe così le scatole perché è proprio tutto nuovo, mi hai capito? D'accordo, ma so, se tu di domenica hai la possibilità di andare a vederlo, possiamo andare a misurare da queste stazionarie, a vedere come è fatto tutto l'impianto dell'antenna e si può andare a vederlo, se puoi andare a vederlo. Certo, non ho nessun problema, io le chiavi ce le ho qui nel cassetto qui a casa. Non so, se vuoi per me non possiamo vedere, non ci vuole tanto vedere stazionari, hai visto quanto ci vuole. Va benissimo, tu mi dai, se come vuoi tu, Pierpa, io devo stare a te, tu mi devi dire. Guarda, io la domenica mattina in genere scendo, ne trovo qualche amico di nome della frequenza, giù a San Giovanni, prendiamo il caffè, il giornale, e alle 9, non lo so se tu vuoi farti trovare, verso quell'ora mi chiami, io dalle 9 in poi sono a San Giovanni e prenderò il caffè. Adesso controllo nel telefono se mi è rimasto quel numero lì. No, il numero è il secondo che ti... quello che ti ho richiamato io, però non è il primo che ti ho dato. Aia, aspettami un secondo solo. E quello che ti avevo dato a voce, quello lì no, è una scheda che non uso, quindi è inutile che mi chiami su quello, sull'altro che è il secondo che ti ho chiamato. Adesso controllo, Sotto fate squillare di nuovo, Sì, già, aspetta un attimino che mi cancello, perché ne ho un sacco di chiamate. Davvero, sempre per Paolo. Quello, guarda, lo stavo temendo. E che fa? Non faccio lo squillo? Dico. Aspetta. Se me lo memorizzo questo. Ok, arrivato, mo memorizzo. Memorizza. Pierpaolo, Gianni. Allora, adesso qui cosa devo scrivere? Gianni o Pierpaolo? No, devi scrivere Pierpaolo. Sì, guarda, il primo problema che c'hanno questo baracchino, c'hanno la stessa voce di un altro. E qualcuno ci faceva caso per il primo periodo. Anche Gianni c'è cascato. Mi chiamo tutti col nome dell'altro, perché c'era prima di me con questa timbrica qua, no? Allora, qui abbiamo memorizzato alla grande. Non farò squillare. Pronti? E ho scritto Gianni veramente, no? Oh, nell'altro ho scritto Gianni doppio. Bene, allora mi appare, io dovevo cambiare il nome perché ho scritto Giuseppe Cimì, invece devo scrivere Tornado Gisei. Ascolta, Tornado Gisei a fare queste cose. Adesso nel camion mi ti metti la scritta come il vulcano, ti metti Tornado CP. CP Tornado, io ho già la scritta, CP Giuseppe. Oia. Bene signori, mi sa che il Big Ben ha suonato. E mi pare che anche per lui adesso c'è il rientro, Siamo alla grande ragazzi, e che dirvi, un saluto circolare a tutte e tre, ci risentiamo presto, una buona nottata e niente, buon tutto e tutto quello che volete, ciao ragazzi. Papa, ti saluto, buonanotte, ti ascoltiamo tutta la mattina, ci sentiamo anche per quella altra cosa, ciao, buonanotte, anche con la famiglia, ciao, ciao, ti passo Gianni per i saluti. Baci Gianni. Ciao Giuseppe, buonanotte, tante cose belle, eh? Hai guardato da 30 anni, ciao ciao. Ciao Gianni, ci sentiamo presto, buonanotte anche a te e niente, tutto quello che vuoi anche tu, dai, ciao. Ciao.